ginnastica mentale. We'll be right back. possiamo farlo ancora? Possiamo farlo ancora. You got to do what you got to do. You got to do what you got to do. Vaffanculo. Mondaio davvero. Conto, conto, sì. Ascoltando, fratello. Cielo. Bello, bello, bello, bello. Mi piace. Artista? Artista non pervenuto.

non subire un qualcosa, devo essere sicuro di aver scelto liberamente. canzoni e ritmi da scantinato, qualche suono al trattato. Nel programma col cuore di un bambino, il cammino di Gigi D'Agostino. Bello, bello, bello, bello. Mi piace, cos'è? La risposta vive dentro di te. www.gigidag.com e fai la votazione. Per votare basta cliccare www.gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Ti si apre la paginetta e scegli la canzonetta. A fianco al titolo troverai un pallino e lì dentro metterai il votino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Per votare basta cliccare, sta a suonare il cellulare. Yeah.

what you get. This is what you get when you mess with us.